essere premiato, ma in realtà ti sposti lento. Passi se annida un senso ed io non posso che assegnarti un immobile straziante abito. Non vedi sui tuoi passi se annida un senso ed io non posso che assegnarti un immobile straziante abito. Se decidi di affrontare, non c'è tregua se ti appresti a rallentare. Nulla e niente se decidi di affrontare, non c'è tregua se ti appresti a rallentare. A rallentare. A rallentare. A rallentare. Lento, lento, non sui tuoi passi se mi dà un senso ed io non posso che assegnarti un immobile straziante abito. Non vedi sui tuoi passi se mi dà un senso e io non posso che assegnarti.